Buonasera Chiesa, benvenuti a tutti coloro che ci hanno conosciuto per la prima volta ieri. Se sei qui ed è la prima volta che abbiamo l'onore di ospitarti in questa casa, voglio dirti che sei il benvenuto e tutto quello che c'è qui è per farla essere casa tua. Quello che abbiamo fatto ieri era solo per presentarti un unico Dio che è in grado di cambiare la nostra vita. E questo è Cristo Gesù, te l'abbiamo detto ieri, vogliamo continuare a dirtelo oggi. Abbiamo stampato dappertutto Gesù per tutti, vero? Ormai è diventato il nostro motto, ormai è diventato quello che predichiamo sui social, quello che predichiamo a casa, quello che predichiamo nel posto di lavoro. Gesù è per tutti, nessuno escluso, per tutti. E ora mettici tu il tuo nome al posto di tutti, perché Gesù è per te, Gesù è per te. Questo te lo voglio raccontare per qualche minuto, ma intanto lasciatemi dire che quello che è successo ieri è a opera e si compie con una chiesa straordinaria, con dei volontari straordinari, con una chiesa stupenda che sogna grandi sogni. Quindi chiesa, facciamoci un applauso per tutto quello che abbiamo dato ieri, perché eravamo lì presenti fino all'ultimo, dall'inizio alla fine, a predicare Gesù, ad alzare le nostre mani a Dio. Facciamoci un applauso. Io ringrazio tutti i volontari presenti, ringrazio tutta la squadra degli eventi, straordinari, instancabili, fortissimi. E sai una cosa? Faccio un po' quella che va indietro, no? Nel 2002 abbiamo cominciato a varcare quel marciapiede, qualche upside down. Nel 2002, 16 anni fa, 2002-2003, eravamo lì con un volantino bruttissimo fatto dal pastore Mirko, che è un gran pastore, ma è un pessimo grafico. E il Signore ha provveduto Vito Marinelli, nonché mio marito, che vi saluta oggi a casa, non sta bene. Però eravamo con questo volantino lì a parlare di Gesù e sai una cosa? C'erano dietro di noi sempre, non li dimenticherò mai, Carla e Sofia lì a pregare. Chilometri di preghiera, hanno le gambe toniche, cioè Sofia ha le sue gambe perché ha fatto chilometri di preghiera mentre pregava per qualche ragazzino lì che stava predicando Gesù il sabato sera. Vedere dopo 16 anni quello che Dio ha fatto è solamente per la sua gloria. Sì, Chiesa? E per la sua gloria e per il suo nome. Che bello, che bello. E se stiamo predicando che Gesù è per tutti, allora dobbiamo per forza aggiungere che la Chiesa è per tutti. Sì? Gesù è per tutti, ma anche la Chiesa è per tutti. Quindi se sei scettico, se sei arrivato qui con un curriculum bruttissimo, come delinquente, come dipendente, come attaccato, come rotto, come rigettato, bene, questo è il posto per te. Se sei arrivato qui come deluso, come malato, con problemi psichiatrici, questo è il posto per te. Se sei arrivato qui compromesso nella sessualità, se sei arrivato qui con dipendenza, questo è il posto per te. Sai perché? Perché lì davanti alla porta non c'è scritto entra se sei bravo, ma c'è scritto benvenuto a casa, e non c'è una specifica di chi è benvenuto qui. Perché? Perché tutti siamo benvenuti qui, perché ognuno di noi è stato benvenuto già, e se sto parlando ora è perché qualcuno mi ha detto tu sei benvenuta tra le braccia di Dio. Ecco che devo dirti che la Chiesa è per te, la Chiesa è per te. Se sei qui, la Chiesa è per te. E come Chiesa noi crediamo in un libro glorioso che è la Bibbia. Ieri lo abbiamo regalato in piazza, siamo pronti a regalartelo anche oggi e vogliamo vedere dalla Bibbia stasera qualcosa che ci convincerà ancora di più che, ehi, questo è il posto per te, che ti stavamo aspettando e che questa è casa tua. Vogliamo leggere un verso subito? Siete con me, Chiesa? Matteo 4, verso 23, leggeremo alcuni versi stasera. Matteo 4 dice: Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, ascolta ora, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, li recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici. Ascolta, ed egli li guarì, ed egli li guarì. E tutti che gli furono presentati, Gesù non li ha mandati a bocca asciutta a casa, ha sempre compiuto per loro qualcosa di molto speciale. Quindi grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Gesù durante la sua esistenza ha incontrato tutti, ha incontrato ogni tipo di persona, prostitute, donne adultere, peccatori, mafiosi, politici, ogni tipo di persona, e con ogni tipo di persona Dio ha fatto qualcosa, Gesù ha fatto qualcosa. E sai che a questa lista puoi aggiungere il tuo nome e il mio nome, e quindi te lo voglio rileggere. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, Sara, Vito, Marco, Mirko, Anna, Grazia, Giuseppe, ognuno di noi. E li guarì. Amen. Amen. E non solo ha guarito, perché questo è la fine del capitolo 4, il capitolo 5 dice delle cose straordinarie, è un capitolo molto famoso. Gesù alla fine del capitolo 4 chiama delle persone umili, delle persone qualunque, a cui anche a loro ha fatto miracoli, a cui ha compiuto delle grosse cose. E li ha chiamati, leggiamoli insieme. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Matteo 4, 18, 22, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori, e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatore di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciando subito la barca e il loro padre, lo seguirono. Gesù ha incontrato questi tutti, e la Bibbia ci parla di loro come delle persone molto semplici, come delle persone che si svegliavano la mattina, andavano a prendere la loro barca, andavano a prendere le loro reti, si recavano sulla spiaggia, provavano a pescare, se andava bene la giornata pescavano, andavano a vendere il pesce, potevano tornare alla casa contenti la sera o altrimenti no. Ed è quello che succede ad ognuno di noi. Perché ho preso questo nulla hop? Non perché debba fare qualcosa. Quando ero piccola sapevo fare. No, lasciamo perdere. Non vorrei fare figuracce, ok? Però Gesù ha preso la vita normale, quotidiana, rutinaria di ogni persona. Svegliarsi, lavorare, vivere la propria famiglia, cercare di fare soldi e poi tornare a casa. E Gesù ha guardato queste persone con una vita regolare, uguale, quotidiana, rutinaria, e li ha scelti. E Gesù è venuto per rompere la nostra piccola vita, il nostro piccolo mondo. Così si chiama il messaggio di oggi, il nostro piccolo mondo. Il nostro piccolo mondo è fatto di cose che dobbiamo compiere giornalmente. Cose che sono belle, cose che ci piacciono, cose che non ci piacciono, doveri, cose che capitano, cose che ci accadono, telefonate, urgenze, incombenze, priorità, eccetera. Ma Gesù ha deciso un giorno di rompere il piccolo mondo di qualcuno. Perché? Perché Lui ha un grande mondo per noi. Lui ha avuto un grande mondo per queste persone dal piccolo mondo. Gesù ha chiamato delle persone ordinarie, le ha chiamate a cose straordinarie. Ha preso ognuno di loro e da essere pescatori li ha resi pescatori di uomini. Incredibile. Questo vuole fare Dio con te. Ma stai scherzando, Sara? Con me? Ma io non lo conosco questo Gesù. Sì, con te. E Gesù vuole farti conoscere, vuole farsi conoscere da te. Perché sa, Lui per primo, che il nostro piccolo mondo non piace a nessuno. Non piace a nessuno restare in questo piccolo cerchio giornalmente. E quanto è grande questo cerchio, da quando nasci a quando muori. E puoi aver fatto cose straordinarie per gli uomini, ma zero per Dio. Zero per l'eternità, zero valore per le generazioni future, zero valore per il mondo spirituale. Ecco che Dio ti chiama oggi a vivere qualcosa di diverso. Qualcosa di nuovo. Dio vuole oggi rompere il nostro piccolo mondo. E lo so che non ci stai bene, perché a nessuno di noi piace svegliarsi e rifare le stesse cose ogni giorno. È vero. A chi piace rimanere in un mondo che è sempre quello e sperando il più tempo possibile, chissà quando muoio se forse vado da Dio? Sai, il nostro piccolo mondo, se non è interrotto da qualcosa di veramente bello, quale è Gesù, che può rendere il nostro piccolo mondo un mondo differente, non finisce bene, non ha una buona fine. Mentre se il nostro piccolo mondo si rompe e Gesù viene a rompere questo piccolo mondo, allora qualcosa di eterno può entrare, perché Lui trasforma le cose piccole in cose grandi, Lui trasforma le cose minime in cose eterne. Dio vuole fare della tua vita una vita che vive per l'eternità, una vita che conquista gli altri per l'eternità, una vita che non è segnata dal giorno di nascita e dal giorno di morte, ma è segnata dal giorno di nascita, dal grembo di tua madre, dal giorno di nascita in Cristo Gesù e da nessuna data di morte. Non che non morirai più fisicamente, ma ehi, Gesù ha per te la vita eterna. Che cosa vuol dire? Che il cerchio non si chiude, che il cerchio non si chiude, che il nostro corpo potrà morire, ma noi vivremo per sempre con Lui. Che cose difficili stai dicendo, Sara? Io sono venuto qui triste, abbandonato, distrutto, qualcuno mi ha invitato, e allora ti voglio dire qualcosa. Lui è buono, Gesù è buono, e Lui non ti rimanderà a casa come sei tornato. Ho detto prima, sei venuto qui distrutto, rigettato, sofferente, malato, dipendente. Lui è buono. Senti le parole che Gesù ha per te. Matteo 5 è un capitolo che conosciamo bene. In realtà questa è la predicazione di apertura del ministero di Gesù. In Matteo è raccontata questa come una predicazione che è chiamata il sermone sul monte. Qualcuno dice che sia durata tra le 3 e le 5 ore. Tanta stima per le persone che hanno... No, sto scherzando. Immagino che Gesù sarebbe stato facile ascoltarlo per 3-5 ore. Il pastore ci vuole allenare. Infatti, da domenica prossima proveremo 3-5 ore. Chi è d'accordo? Tante mani alzate, pastore. Pastore, e basta. Gesù, vedendo le folle, Matteo 5, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. E i suoi discepoli si accostarono a Lui... Ed egli aprì la bocca e insegnava loro dicendo, fermiamoci qui, leggi bene questi passaggi con me. Gesù, vedendo le folle, lui ti vede, e per Lui non rimaniamo uno in mezzo agli altri, per Lui non rimaniamo la folla, Lui ti vede, e siccome ti ha visto e siccome ci ha visti, allora è salito sul monte, cioè si è reso visibile, perché questo fa Gesù. Gesù ti vede, si fa vedere, si rende visibile. Noi non abbiamo un Dio che nasconde la sua faccia, noi non abbiamo un Dio che nasconde la sua identità o prova a farcela capire attraverso messaggi subliminali o, non so, messaggi dal cielo o misteri allucinanti. No, Gesù ama farsi vedere. Gesù ama farsi vedere, e così è salito sul monte, perché Gesù vuole essere visto da te. Gesù vuole incontrarti. Ancora si mise a sedere. Che bello! E i suoi discepoli si avvicinarono a Lui. Gesù è approcciabile. Gesù è approcciabile. Lui ama stare con te. Lo sai, Lui ama stare con te. Lui vuole che tu ti avvicini a Lui. Lui non è talmente sacro da non poter essere avvicinato. Lui è santo, santo, santo, ma ha scelto di essere avvicinato da me e da te. Che Dio glorioso che abbiamo. Aprì la bocca e insegnava loro. E siccome ha parlato per 3-5 ore, possiamo immaginare molto bene che non ha cominciato a parlare in una lingua straniera o con parole difficili o in una maniera stancante. No, Lui ha insegnato parlando a loro. E tutti lo hanno ascoltato. Perché? Perché Gesù ha reso accessibile il suo messaggio, lo ha reso comprensibile per tutti. E questo te lo voglio dire, sai perché? Perché ho parlato con tante persone che mi hanno detto, io la Bibbia non la capisco. Ehi, la Bibbia la puoi capire. Comincia dai Vangeli, comincia a leggere dai Vangeli e vedi che Gesù sta parlando a te perché Lui vuole essere capito. Lui non ti vuole dare un messaggio criptico solamente per alcuni o per quelli che conoscono l'ebraico, l'aramaico, il greco e tutto quanto. No, no, tu lo puoi capire perché Gesù vuole parlare a te. Tu lo puoi capire perché lui ha scelto di parlare a te. Sì? Ti piace? A me piace un sacco questo, che Dio non ha avuto bisogno di tramiti per parlare al mio cuore. Dio è arrivato al mio cuore e lui mi ha permesso di comprendere quello che voleva dirmi. Lo ha reso accessibile a me, alla mia anima, alla mia mente, alle mie emozioni, alla mia intelligenza. Gesù ha parlato le parole che io potevo capirle, così come Gesù sta facendo ora. Perché quello che stai ascoltando non è solamente la mia voce, ma è quello che Gesù vuole farti capire. E lui ti vuole far capire che lui ti vede, che lui ama che tu gli stia accanto, che lui ti sta cercando e che lui vuole farsi comprendere da te. E nella pienezza del suo linguaggio, Gesù ha cominciato il suo sermone parlando queste parole, le famose beatitudini. Leggiamole insieme. Ehi, chiudi gli occhi un attimo. Prova a farti arrivare questa carezza sul cuore da Gesù. Te le leggo io, se vuoi. Nessuna cosa magica, non ti ruberemo i portafogli, ok? Ma chiudi gli occhi e ascolta queste parole per te. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Amen. Amen. Amen. So che queste parole sono state una carezza sul cuore per tanti. E questo è il nostro Dio. Lui è dolce. Lui comincia a parlare con una dolcezza spiazzante, perché lui conosce il tuo stato oggi. Lui conosce il tuo cuore ora. Seguimi un attimo. Quello che Dio ha fatto ora con queste parole è di consolare. Sai quando i bimbi ti danno una carezza? Se andate da Joy De Nicolo, lei ti dà una carezza. Vale come quella di 10.000 persone. Ha questa manina dolcina che ti dà la carezza. Ed è dolcissima. Gliel'hanno insegnato i genitori. Fantastici. E tu, quando sei sotto la mano di Joy, non ti devi muovere, perché lei va dritta dritta, con la mano così a paletta, non è che proprio fa a cucchiaio, no, a paletta, boom. Fa un po' lo scrub, ma è carinissima. E così è con Gesù. Lui provvede ad una carezza per te, sempre, per come sei ora, per come stai ora. Ma non ti lascia così, non ti lascia qui per domani così. Perché? Perché Gesù non è il Dio dell'ora, Gesù è anche il Dio del domani. Gesù è il Dio che vuole lavorare sul tuo passato, che vuole lavorare oggi sul tuo presente, ma è anche il Gesù che vuole compiere il tuo futuro, vuole cominciare a riscrivere il tuo futuro. E allora Gesù continua a parlare a quelle stesse persone a cui prima ha detto beati coloro, a cui prima ha dato una carezza. Gesù continua a parlare loro e dice, ascoltami ancora, Matteo 5, conosciamo a memoria questi versi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterlo sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ascolta qui, Gesù ti ha accarezzato e poi ti ha dato un destino. E poi ti ha chiamato ad uno scopo di vita. Tu sei sale della terra e tu sei luce del mondo. E tu sei la luce che gli altri possono vedere per arrivare a Dio. Wow! Non è incredibile questo? Cioè non solo ha fatto per ieri, per oggi, per domani, per me e per le generazioni che mi seguiranno. Assurdo! Gesù ha rotto un cerchio per me, ma non solo per me. Lo ha rotto per tutti coloro che vedranno come Gesù è entrato nella mia vita. Come Gesù è arrivato qua. Come Gesù ha fatto un appuntamento con me. Assurdo! Sara, ma tra quella folla c'erano indemoniati, epilettici, paralitici, omosessuali, delinquenti, extracomunitari, mafiosi, politici. Sì! C'ero anche io. Indovina, non ero migliore di quelle persone che erano lì. Eppure Gesù mi ha dato una carezza sul cuore e poi mi ha detto: tu sei sale della terra, tu sei luce del mondo e tu sei luce per arrivare a me, per tutti quelli che ti vedranno. Non è incredibile questo Dio? Lui non fa solo ora, lui non è solo il pane di oggi, lui è anche di domani e di dopodomani e per ogni generazione che ci seguirà. Non è glorioso? Guarda la persona accanto a te, non gli dire niente, guardalo negli occhi con uno sguardo minaccioso, solo minaccioso, fagli una minaccia con lo sguardo, non gli dire niente, capirà. Ora girati dall'altra parte, guarda minacciosamente l'altra persona. Sai cosa hai visto? Sai chi hai guardato negli occhi? Hai guardato il sale della terra e la luce del mondo. Amen. Hai guardato il sale della terra e la luce del mondo. Il sale. Oh, io sto combattendo con il sale. A me non piace il sale, ok? E quindi siccome sono a dieta, lo so che non c'è un perché sono già straordinaria così, ma devo farlo per la mia schiena e quindi ho messo un po' a dieta la mia cucina. Io mangio tutto senza sale. E vi assicuro che non è fantastico, ok? Mangiare una frittata senza sale, senza uova, senza niente. Aria, mangi, frittata, fantastico. Sapete qual è la potenza della dieta? È che dopo che hai mangiato sei leggero, è vero? Ti senti come se non hai mangiato niente, è così. E il sale, wow, è incredibile che effetto ha sul cibo. Non so se una foglia di rucola, queste sono le mie cene ora, ok? Una foglia di rucola senza sale è triste. Una foglia di rucola con il sale, wow! Il sale fa la differenza, il sale fa la differenza, però fa male, ci sgonfia e tutto il resto, ok? Va bene, siamo in estate, provo a costume, ma il sale fa la differenza. E sai una cosa? Lo ha sempre fatto. È da secoli che esiste il sale. Sapete, c'è una via in Italia che è chiamata la via del sale per il trasporto del sale. Perché è così fondamentale il sale? Per tanti motivi. Ma prima di tutto è un disinfettante. E poi conserva, purifica gli alimenti e dà sapore. Il sale. Gesù ha detto che noi siamo il sale della terra. Cosa abbiamo detto che il sale fa? Purifica, dà sapore, protegge, conserva. Possiamo fare noi queste cose? Gesù è il nostro sale. Lui è il sale. Lui è il sale della nostra vita. Ha reso una vita insipida, una vita eterna. Non è questo sale. Non è questo sale. Lui è il nostro Dio. Ha provato a cambiare milioni di vite, sta continuando a cambiare tante vite, compresa la mia e la tua in questo momento. Il sale è penetrante. Il sale è veloce, il sale è potente, ti bastano pochissimi granelli di sale per buttare un piatto, per farlo rendere un piatto da 5 stelle Michelin. È quel granello di sale che fa la differenza, sono quei piccolissimi cristallini di sale che fanno la differenza. Ehi, Gesù fa la differenza, lui è il sale. Ma dall'Antico Testamento leggiamo che ogni cosa che Gesù voleva, ogni cosa che Dio voleva che fosse sacrificata a lui, doveva essere cosparsa di sale, doveva essere ricoperta di sale. Voglio farvi leggere questi due versi dell'Antico Testamento, in Numeri e Levitico. Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie come statuto perpetuo tutte le offerte elevate di cose sante e che i figli di Israele presentano all'Eterno. Ascolta ora, è un patto di sale. Non l'avevo mai letto così. Questa eredità che Dio ha creato per i figli suoi, per i sacerdoti, è un patto di sale, che significa che dura in eterno, che dura per sempre, che dura di generazione in generazione, che è puro, che è santificato, che è conservato, che è potente, che è penetrante. Questo è il potente Vangelo, questo è il nostro Cristo Gesù, questa è la grazia sulla nostra vita, perché il Vangelo è la grazia di avere qualcuno che ha pagato per te e di ricevere la vita eterna. E non hai pagato niente, perché ha pagato tutto Cristo Gesù. Questo è il sale che copre le benedizioni, che copre gli altari. Ascolta qui in Levitico: ogni oblazione di cibo che offrirai lo condirai con sale, non lascerai mancare il sale del patto di Dio dalle tue oblazioni. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Dio non voleva che fosse sacrificato nulla senza sale. Perché? Perché un Dio che ama le cose buone, sì, Lui ama le cose buone. Lui ha sempre amato le nostre primizie. Lui ha amato sempre il meglio di noi stessi. Ma sai che cosa? Ogni cosa che voleva, doveva essere offerta a Dio, doveva essere condita con sale. Il sale è Cristo Gesù, la sua grazia, il patto, l'eternità. Niente di quello che noi possiamo offrire a Dio piace a Dio se non è condito con sale. Te lo voglio dire di nuovo: non possiamo offrire nulla che piaccia a Dio che non sia ricoperto di sale. Non possiamo offrire nulla della nostra vita. Non possiamo offrire nulla se non è ricoperto dal sale. Lui è colui che entra nella nostra vita, che è penetrante, che è piccolo, che è potente e che cambia le circostanze. Ma dopo questo, Lui chiama ad essere noi sale della terra e fa la stessa similitudine con la luce del mondo. Ancora la Bibbia parla di noi, Dio dice a noi: voi siete la luce nel mondo. E Gesù dice di se stesso, ve lo leggo io al volo, in Giovanni 8: io sono la luce del mondo. Ehi, Gesù dice di sé che è la luce del mondo, poi dice a me: tu sei la luce del mondo. Sai perché? Perché ora ha lasciato questo compito a noi. Tu sei sale, tu sei sale, tu sei luce, e la luce deve risplendere, la luce deve essere vista, la luce è potente per arrivare nelle tenebre, la luce è potente per arrivare nelle tenebre. Sai cosa? Ieri sera ho visto una chiesa che è luce del mondo. Ieri sera ho visto la chiesa che adorava in mezzo a persone che passavano, a chi ci ingiuriava, a chi non credeva, a ogni tipo di persona. La Chiesa è diventata luce del mondo lì. Che bello! Ma Dio ha chiamato ognuno di noi ad essere luce del mondo. Dove? Sui tuoi social, a casa tua, nella tua famiglia, tra i tuoi amici, tra i tuoi parenti, con quello che fai sul cellulare. Sii luce nel mondo. Sai perché? Gesù ha detto questo, te lo leggo di nuovo: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ascoltami ora un attimo, tra un po' ti chiederò di pregare con me e ti chiederò se vuoi che Gesù sia il sale della tua vita. Ti chiederò non se conosci Dio, perché da buoni italiani, o se sei nato qui, tutti conosciamo Dio, tutti pensiamo di conoscere Dio. Ma quando ti dico se hai una relazione con Gesù, se Gesù è il sale sulla tua vita, allora le cose cambiano. Tra un po' ti chiederò se vuoi pregare con me per questo. Per favore, quando ti chiederò questo, non pensare solo a te, non pensare alla carezza che ti serve oggi, non pensare che te ne andrai da qui e sono più leggero, più felice, sono venuto triste, sono venuto con una faccia a pera e me ne torno a casa con una faccia a mela. No, no, non pensare solo a te. Pensa ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, alle generazioni che seguiranno, ai tuoi vicini di casa, alle persone che vedi per strada, forse ai tuoi vicini che incontri. quando ti chiederò se vuoi che il sale sulla tua vita diventi Gesù, ricordati che Gesù può rompere il nostro piccolo mondo, e non lo rompe solo per noi, ma lo rompe anche per generazioni e generazioni, affinché glorifichino il Padre vostro mentre vedono le vostre buone opere. Che bello! Gesù non è solo il Dio di oggi. Lui non ti vuole dare oggi solamente una vita straordinaria. Gesù la vuole dare oggi, domani, dopodomani, ma non solo per te, per generazioni e generazioni. Gesù vuole che altri vedano il tuo cuore che è cambiato, il tuo mondo piccolo che si è rotto, e ti chiedano: ma che cosa ti è successo? E tu gli puoi rispondere così: ho comprato un pacco di sale. Ho comprato un pacco di sale, te lo voglio dare. Tu sei sale della terra e tu sei luce. Non ti nascondere. Non ti nascondere, non nascondere quello che hai ricevuto ieri sera, non nascondere quello che stai ricevendo oggi, perché molti altri possano ricevere la stessa cosa che hai ricevuto tu. Amen. Chiesa, non possiamo offrire niente a Dio che non sia condito col sale. Nessun sacrificio può essere gradito a Lui se non è condito dalla grazia di Cristo Gesù nella nostra vita. E questo lo dico in particolar modo ad ogni leader, ad ogni responsabile. Combattiamo, affatichiamoci, sacrifichiamoci, questo è quello a cui siamo chiamati, ma non diamo nulla a Dio che non sia condito con la grazia. Perché quando facciamo un buon arrosto ma non c'è sale, manca qualcosa, ti stancherai molto presto. Ma quando è condito con sale, allora ne vuoi ancora, allora ne vuoi ancora. Amen. Sento molto nel cuore di dirti questo, perché Dio ti ha chiamato a benedire generazioni. Non ti puoi fermare ora, non ti puoi fermare ora. Sì, ieri siamo andati in piazza, sì, stiamo facendo delle cose incredibili, ma il meglio ci sta ancora davanti. Abbiamo tanti grandi sogni per Dio da realizzare insieme, e abbiamo bisogno di offrire a Dio sacrifici conditi con sale. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Tu sei sale, tu sei luce. Chi te lo doveva dire? Dovevi venire qui per sentirtelo dire. Sì, tu sei sale e tu sei luce. Gesù è per te. Gesù è per te. Gesù è per te. La Chiesa è per te. Te lo voglio ridire. Gesù è per te. Lui ti vede. Lui si vuole avvicinare a te. Lui vuole parlare al tuo cuore. Vuoi diventare una benedizione, una cosa buona, gustosa per la tua famiglia, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per le generazioni future? Allora lascia che Gesù rompa questo piccolo mondo e che sia Lui a intervenire, che sia Lui ad intromettersi nella tua vita, a coccolarti, a darti quelle carezze, ma anche a darti un destino, anche a darti un futuro. Perché tutto quello che ti hanno detto che potrai diventare, fammelo dire, non è vero, non è vero. Solo Gesù ha parole di vita, solo Gesù dice la verità. E se Lui ha detto che tu sei una cosa buona per generazioni e generazioni, allora ci devi credere. Allora non può rimanere nessun insegna fallimento sulla tua vita. Perché se hai sbagliato fino ad ora, Gesù ti dà la possibilità di ricominciare. Perché Gesù ha per te delle nuove possibilità e te le darà ancora con le stesse persone con cui hai fallito, con le stesse persone con cui hai deluso, a cui hai deluso. Dio ti vuole mandare di nuovo a dare sapore a loro, a spargere il sale, ad essere luce. Dio non solo ha una coccola per te, ricordalo. Dio ha un destino eterno per te. Vogliamo chiudere i nostri occhi e pregare. Ma come si prega? Parla. Parla con me, così come sto facendo io, ma parla con Dio. Sii sincero, apri il tuo cuore a Dio. Apri il tuo cuore a Dio. Lui sta ascoltando, Lui ti vede, Lui sa esattamente dove sei. Lui sa esattamente dove sei. E se il tuo è un mondo piccolo, io ti voglio pregare oggi ti voglio chiedere oggi di decidere di farti insaporire dal sale eterno. Quanti oggi vogliono rompere questo piccolo mondo? Mentre abbiamo gli occhi chiusi e la testa bassa, posso vedere le mani di chi oggi sta dicendo: Sara, io voglio che il mio piccolo mondo si rompa, che Gesù intervenga nel mio piccolo mondo. Non voglio più rimanere in questo circolo vizioso, io voglio innescare un circolo virtuoso nella mia vita. Posso vedere la tua mano, che voglio pregare per te. Amen. Amen. Alza ancora la tua mano mentre abbiamo la testa china per dare privacy. C'è ancora qualcuno che dice: sì, io voglio essere una cosa buona per le generazioni che vengono e voglio che Gesù si mischi nella mia vita e che Lui dia l'eternità alla mia vita. Posso vedere la tua mano alzata? Con sincerità, con radicalità, vedo la tua mano. Amen. Amen. Che bello. Che bello. Forse non stai capendo niente, ma sai che c'è bisogno. Devi solo comprendere questo. Gesù ti vede, Lui ti coccola e Lui ti dà futuro. Amen. Se hai alzato la tua mano, vuoi pregare con me questa preghiera? Io la dirò ad alta voce per aiutarti, ma per piacere pregala con tutto il tuo cuore. Pregala con la fede, quella piccola fede che hai, ma pregala con la fede. Chiesa, vogliamo pregare insieme. Signore Gesù, grazie perché oggi ti sei fatto conoscere da me. Avevo sentito parlare di te, ma solo oggi ho capito che puoi perdonare i miei peccati. E voglio arrendere ogni cosa a te. Voglio arrendere quello che è successo fino a ieri. Voglio arrenderti il mio oggi e voglio abbracciare il futuro che hai per me. Io ti chiedo perdono per i miei peccati e voglio chiamarti padre e amico. Nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Se hai deciso di far rompere questo piccolo mondo, hai fatto la decisione migliore della tua vita. E ci sono molte persone che vogliono raccontarti come Dio ha fatto con loro. E ci sono delle persone, fatevi vedere, con un regalo per voi. C'è un regalo per voi con una Bibbia per raccontarvi ancora di più chi è questo Dio glorioso nel quale crediamo. Dio ha compiuto un miracolo in te oggi. E non solo in te, ma nei tuoi figli, nei tuoi nipoti e per le generazioni future. Amen. Chiesa, tanto sale. Tanto sale. Amen. Vogliamo pregare ancora insieme per il sale. Metti un braccio sulla persona accanto a te, anche se puzzi, anche se non la conosci. Poggia la tua ascella sudata, presentati magari prima. Ma chiediamo che Gesù possa coprire ogni cosa. Signore Gesù, noi ti presentiamo tutto e lo lasciamo a te, ai tuoi piedi, al tuo altare. Sacrifichiamo ogni cosa a te, dedichiamo ogni cosa a te, lasciamo a te ogni autorità sulla nostra vita. E Gesù, il desiderio del mio cuore, il desiderio del nostro cuore è solo farti piacere, è solo darti gioia, è solo glorificare il tuo nome. È glorificare la tua potenza, è glorificare il fatto che tu sei vivo, che sei glorioso, vedere il tuo regno avanzare, vedere anime che vengono strappate da Satana, così come sta succedendo in questo momento. Nel tuo nome, Gesù, io voglio vivere per questo. Diglielo a Dio, confessalo ora: io voglio vivere per questo, io voglio vivere per questo, io voglio vivere per il tuo regno, ma non voglio fare niente senza te, non voglio fare niente senza te. Diglielo a Gesù, diglielo a Gesù. Vogliamo cantare insieme. Ancora continua a confessare queste parole per te. Continua a confessarle sulla tua vita.